Europa 24. In primo piano il Consiglio europeo dei ministri degli esteri in corso a Lussemburgo, immigrazione in Libia, i temi in primo piano nel giorno in cui si parla di un nuovo naufragio nelle acque del Mediterraneo. L'urgenza di nuovi piani tra il benvenuto al Migrant Compact italiano e nuove proposte, talvolta la impone la storia che si ripete. Così la crisi migratoria incombe di nuovo nell'agenda europea in un giorno triste, per dirla con l'alto commissario Federica Mogherini, nel primo anniversario, cioè del peggiore naufragio del Mediterraneo, e mentre si teme una nuova strage. Abbiamo fatto molto e molto resta da fare, elenca il rappresentante della politica estera entrando al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si discute di possibili partnership con i paesi di origine e transito dei migranti. Un progetto potrebbe essere estendere nelle acque territoriali libiche, propone Mogherini, l'operazione già in atto nel canale di Sicilia contro gli scafisti. Ma questa giornata rappresenta anche il primo banco di prova del piano sottoposto venerdì dal premier Matteo Renzi ai vertici comunitari, e la prima reazione è il grande benvenuto alla proposta che la Commissione fa arrivare attraverso il portavoce Margherita Sascinas. Il presidente Juncker è molto contento che l'approccio europeo, aggiunge, trovi forte sostegno. Nella sua lettera Renzi chiedeva all'Unione di investire di più in assistenza e cooperazione con i paesi di origine e transito. Inevitabilmente, anche se non in agenda nel vertice, entra pure la questione Brennero, e il ministro degli esteri Paolo Gentiloni confida che al di là di gesti simbolici si possa collaborare, perché l'innalzamento di un muro, dice, arrivando, avrebbe effetti economici gravi per l'Europa. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 ore. La Gran Bretagna è destinata a diventare un paese permanentemente più povero se il referendum del 23 giugno sancisse il divorzio dall'Unione Europea, parola del titolare del Tesoro, il cancelliere dello scacchiere George Osborne, che ha illustrato in questi termini il rapporto di 200 pagine redatto dagli economisti del suo dicastero, secondo il quale in caso di Brexit commercio, tassi e mutui ne risentirebbero in modo negativo, vi sarebbero nuovi tagli sulla sanità e non solo, il PIL del Regno Unito precipiterebbe gradualmente di almeno un 6% e ciascuna famiglia subirebbe una perdita annua pari in media a 4.300 sterline, poco meno di 6.000 euro. L'antitrust europeo teme che Google possa frenare l'innovazione degli altri competitor, chiedendo ai produttori di smartphone di preinstallare sui telefoni una serie di sue app. Lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, parlando ad Amsterdam all'evento Consumatore e Concorrenza. Il nostro timore è che Google, chiedendo a produttori ed operatori di preinstallare una serie di sue app piuttosto che far scegliere loro quali scaricare, potrebbe aver eliminato uno dei modi principali attraverso cui le nuove app raggiungono i consumatori, ha concluso la Vestager. Negli ultimi giorni l'indagine UE su Android, aperta da aprile dell'anno scorso, ha subito un'accelerazione e la Commissione potrebbe essere vicina a formalizzare le accuse. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.